bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. Cari ascoltatori, questa è la puntata numero 200. È una puntata anomala, destrutturata e forse è anche l'ultima. Abbiate pazienza però, vogliatevi bene e buoni fotoni a tutti. Ciao! Skies they opened up and now the frogs are pouring out, splattering and scattered on the ground, falling on the sidewalk in the middle of the street. This could never happen, but it did. We are standing silent in the stupor at the sight, gazing on with glazy eyes apart. Oh, you could never say this could never. Ore 15.07 dell'11 maggio 2011. La giornata comincia. Devo preparare. Senti, se dico la parola scienza, cosa ti viene in mente? Ma mi viene in mente differenti materie, biologia, chimica. Scienza, diciamo, l'evoluzione umana attraverso il pensiero e non solo attraverso le molecole. Scuola. Conoscenza. Dio. Dio? Dio, sì. Davvero? Sì. Come mai? Per la contrapposizione filosofica tra scienza e Dio che ha sempre caratterizzato il sapere italiano. Non lo so. Nulla? Sole. Sole? Sole. Sole. Scienza fa parte della tecnica, della logica. Progresso. Progresso. Progresso. Quindi? No, non capisco. Prima cosa che mi viene in mente? Sangue, emoglobina, microbi, non lo so. Fisica. Perché studio fisica e la trovo la scienza fondamentale per eccellenza. Ricerca, progresso, tecnologia, coscienza. Possono essere tante le... Perché è venuta in mente la parola ricerca? Perché la scienza è conoscenza e quindi per avere conoscenza bisogna ricercarla. La scienza ha sempre da cose nuove da scoprire, la scienza, secondo me. Ci stavo pensando. Sì, sì. Carpina, tanto fino a stasera. Piastrine, non lo so, la scienza... Non so come collegarla. Come mai innovazione? Beh, perché alla fine penso che sia lo scopo della scienza. E se ti chiedo invece cosa dovrebbe fare la scienza e gli scienziati per migliorare se stessi e il mondo in cui vivono? Sicuramente sulla medicina, sulla tecnologia, migliorare questi due settori. È la scienza, diciamo. Non bisogna delegare agli scienziati, ognuno di noi deve cercare di informarsi il più possibile, deve cercare di fare cultura. Sì, penso che debbano fare qualcosa specialmente per l'inquinamento ambientale, che sarà un problema veramente con cui dovremo fare i conti in futuro. Andare a letto presto, mangiare bene. Dovrebbero eliminare il nucleare. Indagare meno e cercare... Ovviamente qualcosa che faccia stare bene tutte le persone, qualcosa che racchiuda delle esigenze, che facciano stare meglio le persone, il sistema, il mondo, il pianeta, tutto questo. La collettività. La collettività, sì. Beh, non lo so, cioè io penso che tipo, dovrebbero essere i politici a migliorare le condizioni di lavoro degli scienziati. Vabbè, tanto non è un'interrogazione, non metto voti. No, no, anche perché di interrogazioni sa che c'erano già uno noi. Studiare è anche essere più umili. Più umili con se stessi e capire i propri limiti per potersi migliorare sempre. Beh, dovrebbero lavorare per il progresso dell'umanità e non spesso invece per cercare delle raggiungere delle scoperte, delle invenzioni che invece portano ad altri interessi che non sono quelli della collettività. Cioè quali? Ad esempio la ricerca sulle armi, la ricerca su tutto ciò che porta negatività all'umanità. Fare solamente, come dire, lavorare solo in funzione di ciò che trovano interessante per loro e affascinante, senza pensare a quali fini possa avere la loro ricerca. Sono le 17:39, la giornata è finita, le interviste sono concluse, io sono stanco, torno a casa, anzi prima mi mangio un gelato. Ciao! Però, ma Fotone è un bel nome. I've been sleeping with the lights on, buried in regrets, breaking into sweats, naked as a falling leaf. It's a natural reaction, driven to distraction, clawing at the ghost I'll never meet. Oh, and I don't know where they go when they vanish in the corners of my eyes. And I don't know why, I don't know if they stay below or rise up to the sky. But I'm letting go, I'm letting go. It's a history that never really grows. I'm letting go, I'm letting go. It's a silent wind that never really blows. I'm letting go. Slave without a master, heading for disaster, kicking up the dust in the middle of the road. I've been waiting on a free ride, ticket to a seaside thicket on the edge of Puget Sound. And there I'll sit, and I'll admit that I was only just a guest inside my skin. And by the dawn I'll be gone and won't be holding on to anything again. I'm letting go, I'm letting go. It's a history that never really grows. I'm letting go, I'm letting go. It's a silent never really blows. Oh, oh, oh, oh, oh. Allora, Annus Domini 2006, gennaio 2006. 2006 comincia Caccia e Fotone, la trasmissione di scienza di Fujiko. Andrea Gozza, tu che cosa ti ricordi di questa trasmissione, soprattutto degli inizi? Beh, intanto il format sicuramente, per come fatto, diciamo, più così stimolante all'ascolto. È chiaro che certi discorsi che possono sembrare, diciamo, certi argomenti che possono sembrare anche pesanti, il format, diciamo, tuo ha così la qualità di poter interessare l'ascoltatore. Io ho notato anche da parte di amici che, diciamo, la tua trasmissione Caccia al Fotone aveva un certo appeal, nel senso che, diciamo, per come era fatto, per come era strutturato, attirava l'attenzione. Il fatto di attirare l'attenzione chiaramente fa sì che poi certi argomenti, come quelli scientifici, possano arrivare meglio a chi ascolta. Quindi questo è, diciamo, la prima impressione rispetto al tuo programma. Senti, tu ti ricordi quelle nottate del venerdì in cui io registravo le puntate, le prime puntate di Caccia Fotone, e tu eri lì per montare, aggiustare computer e fare cose? Lo ricordo anche perché poi probabilmente gli inizi sono sempre un po' più travagliati, no, di una trasmissione, quindi anche immagino lo sia stato anche per te. E quindi i venerdì notte trascorsi lì a montare, a farsi, anche perché poi una trasmissione, cercare di sintetizzare certi argomenti in mezz'ora, mettendogli anche un tappeto musicale, dei break musicali, non è, diciamo, cosa semplice, quindi anche un lavoro che richiede molta attenzione sul montaggio, sulla parte, diciamo, preparatoria. Uno raccoglie e poi deve mettere insieme, allo stesso tempo deve rendere la cosa molto armonica e concentrata in mezz'ora, mettendoci anche, diciamo, delle pause musicali. È chiaro che un lavoro del genere, che può sembrare all'ascoltatore, diciamo, più disattento o meno esperto di certe dinamiche, uno può pensare, vabbè, mezz'ora, no? E invece dietro a una mezz'ora ci stanno ore e ore di lavoro, sia quelle per raccogliere le interviste o le informazioni, e sia anche quelle per assemblare il programma. Andrea, secondo te è migliorato, peggiorato, è migliorabile ancora Caccia Fotone, oppure in qualche modo siamo arrivati alla quadra? Alla quadra non penso, perché penso che gli argomenti che tratta Caccia al Fotone siano infiniti e in progressione, no? Come è in progressione, penso, anche da quello che sento, la qualità del programma. Quindi non è che, diciamo, sicuramente io non ho notato dei peggioramenti, e questo, diciamo, una delle cose. E invece l'altra cosa è che invece mi sembra che tu abbia, da quelle ore, no, che perse, per modo di dire, di notte, il venerdì notte in radio, siamo arrivati, diciamo, a un format che sicuramente tu riesci a gestire meglio, e allo stesso tempo gli hai fatto anche dei miglioramenti, che a volte possono sembrare anche impercettibili, ma nell'insieme poi si nota che c'è qualcosa. Senti, gli fai un augurio alle 200 puntate di Caccia Fotone? 200 sono già state? Ah, però, auguri, 200 è un bel numero. Complimenti. Grazie, Andrea. In a crumbling land, I was singing in the junkyard choir again. And I was waiting for my moment to come. I was beating the timpani drum in the rain, asleep inside a rusty van, parked beside the taxi stand. Well, there's nothing I would ever recommend to you. The freaks are on parade on the uptown promenade. If you ever want to see the bottom, then I'll show you. Screaming at a hot dog vendor again. I can't remember why I snapped. Probably just a little lapse of reason. Virtues come and virtues go. I dressed up in women's clothes and strolled down 42nd Street today. And I walked up to a man Allora, sono le 19.10 del 13 maggio, noi siamo al Circo Sforza, un pubettino tranquillo e con canzoni francesi a Imola, e sono in compagnia di Daniele Barbieri, fondamentalmente un amico. Ciao Daniele. Ciao, ciao a tutti e a tutti. Senti Daniele, tu come hai cominciato a occuparti di argomenti di questo tipo, argomenti di fantascienza soprattutto e... come dire, in maniera tangenziale anche di argomenti scientifici? La molla è stata proprio la buona fantascienza. Quando ero molto piccolo ho incontrato degli autori prima e poi anche delle autrici interessanti. Ho capito che anche lo sguardo sulla scienza poteva essere diverso da quello nozionistico, noioso e parolacce varie della scuola. E quindi ho cominciato a leggere anche dei libri di scienza. Bisogna tenere presente che quando ero piccolo stava arrivando il 68, quindi avevo esattamente 20 anni quando è arrivato il 68, e una parte della contestazione dei saperi ha investito anche le scienze. Daniele, nel 2001 scoppiava la tragedia di Genova, e giornalisti tipo Carlo Gubitosa in qualche modo dicevano che bisognava fare giornalismo dal basso, ed è quello che in fondo provano a fare anche oggi i blog con la comunicazione dal basso. Tu ti sei aperto un blog da poco, sei entrato anche tu in questo meraviglioso mondo, non sei ancora su Facebook. Ha senso parlare di scienza sui blog se chi legge di scienza sui blog è già appassionato di scienza? Beh, forse ordinerò 4 birre prima di rispondere a questa domanda. Noi siamo in un momento, io parlo dell'Italia, che è il posto che conosco meglio, che forse è anche uno dei posti per varie ragioni conciati peggio, parlo appunto fra disperazione e potenzialità, no? La disperazione è grande per quello che succede in Italia. Io credo che siamo per certi versi quasi al 1933 in Germania, insomma una forma diversa ma di stato più che fascista per certi versi. D'altro canto è possibile, come storicamente è successo, che si aprano delle potenzialità anche nei momenti più disperati. Questo è il discorso più politico-sociale e storico. Sul discorso dell'informazione, sul discorso dell'informazione scientifica, io quando qualche volta ho provato a rivolgermi in giro a dei giovani e vedere se rispetto ai miei tempi c'era un minimo di conoscenza in più, ho visto che siamo in una situazione disperata. Poi magari potrebbe essere carino se appunto hai tempo leggere quelle semplici domande e gli stessi ascoltatori e ascoltatrici provano onestamente a rispondere. E noi su un discorso di informazione scientifica e di assunzione critica del metodo scientifico e ricerca di una storia della scienza che tenga conto anche di tutte le sue contraddizioni, dei cammini che si sono aperti ma anche di quelli che si sono chiusi, e spesso si sono chiusi per ragioni politiche, perché certi poteri o certi conservatorismi anche della scienza stessa l'hanno voluti chiudere. Ecco, dentro questo discorso ci rivolgiamo a poche persone. Finché non ci sarà una nuova alfabetizzazione da contrapporre a questo analfabetismo totale, non credo ci potremo allargare molto. Certo, il buon fumetto, la buona fantascienza, la buona letteratura popolare, come i buoni libri di divulgazione, ci possono molto aiutare. In questo senso sono molto combattuto, è chiaro che qualche volta storco il naso rispetto a Piero Angela, e qualche altra volta dico vabbè, ma meno male che c'è lui, perché non abbiamo un Marcello Cini che va in televisione, che probabilmente sarebbe in grado di fare dei discorsi. Senti, ultima domanda prima di leggere le domande a cui gli ascoltatori dovranno rispondere in maniera autonoma, non ce lo diranno mai. La nascita delle nuove tecnologie ha fatto esplodere, come dire, la quantità di informazioni che girano. Ora, dal coro è più facile o più difficile tirar fuori l'informazione che conta? Insomma, una volta c'erano pochi giornali e quei pochi giornali tiravano fuori poche notizie, ma quelle poche notizie che uscivano erano le notizie importanti. Ora, con l'eccesso di formazione in rete, chi non è avvezzo alla comunicazione, e in questo caso parliamo di comunicazione scientifica, è più facilitato nel lavoro di estrarre l'informazione che a lui può essere utile, o in qualche modo vince chi urla di più? In generale no, non siamo più facilitati, anche perché c'è proprio una tecnica, secondo me, chiarissima in politica, ma anche in economia, anche in scienza, adesso studio un po', che per non farti parlare di quello che mi metterebbe in difficoltà ti do tantissime notizie, alcune anche ghiotte, ma non è quella la cosa importante, quella importante la nascondo. Quindi chi parte da questo presupposto e ha gli strumenti, la conoscenza, le competenze, quindi parliamo di fatica, sudore purtroppo, non solo di intuito e genialità, in quel campo scopre questa gran cagnara che cosa vuol tenere nascosto. E allora, finché viviamo una società almeno parzialmente libera, questa diffusione di informazioni fa sì che da qualche parte ci possa essere. Nessuno ha impedito, parliamo di un tema energetico, quindi scientifico fino a un certo punto, ma che qualche attinenza ce l'ha anche col prossimo referendum, nessuno ha impedito a Sabina Morandi, dopo che era stata costretta a licenziarsi da Liberazione perché dava fastidio a Leni, nessuno le ha impedito di pubblicare un libro. Però il libro è stato pubblicato da un editore minore che si chiama Coniglio, anche se in realtà è un editore molto coraggioso, quindi si dovrebbe chiamare Leone, e non ha avuto, credo, nessuna recensione oltre a qualche blog, uno dei quali il mio. Per cui le notizie che Sabina Morandi ci dà sulle schifezze dell'ENI ci sono, ma è veramente difficile trovarle se non hai l'abitudine a cercarle nei pochissimi posti dove queste perle sono nascoste. Insomma, bisogna prendere fiato, buttarsi in acqua, arrivare giù e tornare su con la perla. E allora, ecco qua. Dunque, avevo sperimentato molti anni fa, all'inizio degli anni 90, quindi qualcosa è cambiato, ma insomma, a parte forse una domanda, l'impianto resta valido. Avevo ripreso da un gruppo di ricerca inglese queste domande che dovrebbero, 23, che dovrebbero dare un minimo quadro di un bagaglio di conoscenze scientifiche che dovrebbe essere abbastanza condiviso a livello di persone consapevoli del mondo in cui vivono. Diciamo che se su queste 23 domande ne sbagliate 20 c'è da preoccuparvi. E credo che in Italia sia molto facile sbagliarne 20, probabilmente in Inghilterra, almeno chi ha studiato, forse ne sbaglierebbe un po' di meno. Pronti? Il centro della Terra è molto caldo? Tutti gli insetti hanno 8 zampe? L'ossigeno che respiriamo viene dalle piante? Il latte radioattivo può essere reso sicuro bollendolo? Il laser si basa sulla focalizzazione delle onde sonore? La luce del sole può provocare il cancro alla pelle? L'aria calda va verso l'alto? Il fegato produce l'urina? Gli elettroni sono più piccoli degli atomi? I continenti si muovono lentamente sulla superficie della Terra? I figli di chi fa bodybuilding, o come diavolo si dice, eserciteranno i benefici di questo esercizio fisico? I diamanti sono fatti di carbonio? Il gene del padre determina il sesso dei figli? Gli antibiotici uccidono sia i virus che i batteri? Le vitamine naturali sono migliori di quelle fatte in laboratorio? Il comune sale da tavola è fatto di carbonato di calcio? I più antichi esseri umani vivevano nella stessa epoca dei dinosauri? La luce va più veloce del suono? Le centrali nucleari producono radioattività, ma non tutta la radioattività è di origine umana? Ne esiste anche una naturale? Quale di questi sistemi è il più grande, quale il secondo e quale il più piccolo? A. Sistema solare. B. Galassia. C. Terra. D. Universo. E. Sole. Ultime tre domande. La Terra gira attorno al Sole o il Sole gira attorno alla Terra? Attenzione a rispondere se c'è qualche cardinale in giro. Penultima domanda. Se la Terra gira attorno al Sole, quanto impiega a compiere un giro completo? Un giorno, un mese o un anno? Ultima. Quando si usa il termine DNA, ci si riferisce a studi sulle stelle, sulle rocce, sugli esseri viventi o sul computer? Secondo me la risposta, citando Douglas Adams, è sempre 42. 42 a tutti, ciao. Ciao. I spent so long just wandering. For years I was adrift. Directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly I found purpose and my life became more clear. I found my destination, yeah, but now where do I go from here? 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, two kids, and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? E allora, 1:45 del sabato 14 maggio 2011, voi probabilmente state ascoltando l'ultima parte di Caccia Fotone, anzi l'ultimo stralcio di Caccia Fotone, io invece sono fuori di casa, sto guardando un pochino il cielo. Ricordatevi che Caccia Fotone normalmente veniva registrato nella notte fra il venerdì e il sabato, quindi quando voi ascoltavate Caccia Fotone io probabilmente ero in branda a dormire. E in questo momento sono fuori di casa, sto guardando sopra la mia testa e sopra la mia testa c'è il grande carro e la costellazione del Bote. Che cosa rappresenta la costellazione del carro, del grande carro, dell'Orsa Maggiore e la costellazione del Bote? Rappresentano mamma e figlio. La mamma sarebbe Callisto e il figlio sarebbe Arturo, Arcturos, il guardiano dell'orsa. Ecco, quella stella rossa, rossiccia, che si vede prolungando la coda del grande carro, appunto, si chiama Arturo. È una stella importante per me, è una stella che rappresenta molte cose ed è una stella che in questo momento mi sta accompagnando nella fine di un'esperienza che è stata Cacciafotone per 6 anni. Ecco, l'augurio che faccio a tutti voi ascoltatori e non ascoltatori di Cacciafotone è che abbiate sempre una stella che vi possa seguire, che vi possa indicare il cammino. Tanti cari fotoni a tutti. Ciao. I didn't want to take your honor away. You're just another toy to me, discard.